stai qui vicino a me, qua giù, qua giù. Vedrai, vedrai, vedrai, tu vali sì per me qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. If only we could turn back time, back to the day we said goodbye. Maybe your heart would still be mine, my love, if only. Tu che muovi il mondo, tu che soffi forte il vento, if